Eccola là, ritornati qua negli studi di Onda Rossa. Nei nuovi splendenti. Lustri. Brillanti. Scintillanti studi di Radio Onda Rossa. Scioccanti studi di Onda Rossa. Salutiamo. Aspetta. Vediamo. Ciao, buona serata, non lo so, che ti stai ascoltando? Io la sigla, per ora siamo alla sigla, siamo appena all'inizio, quindi hai voglia. Si va avanti fino a che ci abbiamo suoni in archivio, insomma, da mandare. Che bello, allora l'ascolto. Va bene, allora, salutiamo chi ci ha preceduto prima. Salutiamo Elettrodo, ovviamente, che c'ha dato il cambio, come succede da tanti anni. E salutiamo Herbalife, che invece ci precede ancora prima di Elettrodo il mercoledì notte. Ultima puntata per ora, per questa sera. Salvo che, appunto, a furor di popolo non li vogliate tirare fuori dalla naftalina dove si sono riposti. Quindi scrivete, chiamate, pubblicate, insomma, contattate coi social, disturbate, molestate, fate stalker affinché i quattro conduttori di Herbalife continuino. Intanto vi diciamo, come al solito, che siete all'ascolto di Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda Romani Laziale, e poi in DAB da Roma a Perugia, a Terni, o in streaming www.ondarossa.info, che è anche il sito della radio. Andando su Sostieni troverete tutte le modalità per continuare a far vivere questa radio, che, come sapete, non campa d'aria, ma non campa manco di pubblicità né di sovvenzioni politiche o partitini e partiti dietro che la foraggiano, ma vive solo ed esclusivamente grazie al contributo di tutte e tutti voi che la sostenete nel 1977. Ormai siamo a un mese, anche meno, no? Anche più, qualcosa di più, dal 49esimo compleanno di Radio Onda Rossa. Come sapete, questa quest'anno sarà un po' prima, l'avevamo forse accennato qualche tempo fa, e che comunque in radio gira la notizia. Quanti 5 o'clock @ondarossa.info per scrivere, disturbare, molestare lo spazio che state ascoltando. Invece ondarossa@ondarossa.info e per le vostre comunicazioni alla radio, ovviamente 06 491 750, recapito telefonico 61 80 40 01, numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, 00185 Roma, via dei Volsci 56, San Lollo. Eh sì, sì, era è partita questa, ma non era questa, tra l'altro, questa qui appunto. È proprio per salutare i compagni che dicevamo parlano prima di noi di piante. Di sostanze che stanno dentro una pianta, quindi proprio che te, cioè consumi la pianta così come. E sono riusciti a metterla fuori legge, cioè per crescere, cioè se uno mette pure in natura, cioè. Se un uccelletto vi fa la cacca dentro il vasino. No, quello, il vasino, quello che ci piantate il prezzemolino sul balcone, insomma. O quello da pianta grassa. Appunto. Qui dice a maggio la pianti, aspetta che spunti. Comunque non era voluta, e noi volevamo andare un'altra cosa questa sera. Di Pancreas, ovviamente, dal disco la prima traccia, si è partita la seconda perché boh, non avevo messo in pausa. Comunque questa è Canapa, vecchio lavoro dei Pancreas. E pensare che la cannabis attiva potrebbe risanare questo mondo alla deriva, potrebbe soppiantare petrolio e deriva. Se ne parlava del 2002. Ci siamo abituati. Vabbè, da capo però la traccia che dovevamo mandare, che vabbè, sto disco comunque sì, è abbastanza per quanto riguarda i Pancreas premonitore, come dire, eccolo qua, da capo. Attention please, you've activated the Pancreas cloning project number 6. Questa è Dividi e Comanda. Countdown starting from 5 seconds, 4, 3, 2, 1. parte la tragedia, la seconda soltanto una farsa, ma un'impresa a trovare conforto nelle verità di un filosofo morto. L'uomo più ricco del mondo parlando alla tele da tutti i canali, ha detto che a pensarci bene non è più sicuro che siamo tutti uguali. Ha detto ci sono soggetti che non sono adatti alla vita sociale, ha chiesto al suo tecnopapa un dogma preciso e una dose letale. E si masturba guardandoti sentire gli andamenti della borsa, se non hai ancora capito il master regolare da del tavolo educato. Adesso succede, adesso, adesso. Dividi e comanda, funziona anche in età digitale, se disponi di buoni strumenti per l'applicazione su scala sociale. Favorire il consumo privato è l'angoscia che prende alla gola, pasturare con droghe pesanti, con la propaganda e proposte allettanti. Agli amici gli ospedali, immunità parlamentari, a te lascio raffidare criminali virtuali. E si masturba guardandoti seguire gli andamenti della borsa, se non hai ancora capito il master regolare perché il tavolo è truccato. Adesso succede, adesso, adesso. Please wait. Loading process in progress. Estimated remaining time 1 minute and 13 seconds. 12, 11, 10. Mondo parlando alla tele da tutti i canali, ho detto che a pensarci bene non è più sicuro che siamo tutti uguali. Agli amici gli ospedali, immunità parlamentari, a te lascio affidare criminali virtuali. E si masturba guardandoti seguire gli andamenti della borsa, se non hai ancora capito il master regolare perché il tavolo è truccato. E si trastulla guardandoti seguire gli andamenti della borsa, se non hai ancora capito il master regolare perché il tavolo è truccato. Adesso succede, adesso, adesso, adesso. Succede adesso, adesso. Operation successfully completed. Now you are on time, please. We only know post-mortem. Officer, what is the problem? Can we only know post-mortem? Not just bad apples, it's a whole rotten tree. No, no, no, means no, you're right. Protest demos unionized by the law that finds you hot, by the red right hand that beats you. Officer, what is the problem? Can we only know post-mortem? le Lambrini Girls, l'apertura. Del loro Let's the Dog Out. Bad Apple. Qui così andiamo un po' a leggere qualche nota del testo. Le statue razziste sono una virtù, lecca gli stivali. E i piorzini che li tengono, braccia pesanti, comandi diretti. Proteggere e servire, puntare e sparare. Ragazzi in blu, cicatrici e lividi, distintivi, pistole di proprietà degli abusivi. Danni mortali ai bambini disarmati. La legge e l'ordine ci sfrutta a tutti. Chiama i tuoi cani da guardia rabbiosi e selvaggi. Pensare velocemente nel bagagliaio della macchina, proteggere e servire questo frutto marcio. Picche maiali che cacciano le figlie, stop and search. Agnelli al macello. Rimproveri sovralimentati, proteggere e servire, puntare e sparare. Agente, quale sembra essere il tuo problema? Sezione 8 significa sfratto. Sei un bersaglio quando sei senza casa. Pensare velocemente nel bagagliaio della macchina, proteggere e servire questo frutto marcio, le telecamere del corpo. Bodycam, insomma. Non ci sono mai le batterie. Muoiono prima che accada. Sempre. Suona l'allarme prima che tu sia accusato. Con i crimini che non hai fatto. Agente, qual è il problema? Lo possiamo sapere solo post mortem. Non solo mele cattive, non solo le mele marce. È tutto l'albero che è marcio. 999 significa conosci i tuoi diritti, protesta. Dimostra, sindacalizzati. Combatti la legge che ti combatte più duramente. Mordi la mano destra rossa e ti dà da mangiare. Agente, qual è il problema? Lo possiamo sapere solo post mortem. Non sono mele marce, ma entro tutto l'albero è marcio. Questa è Radio Onda Rossa 25 o'clock. Che bladera durante il mercoledì notte. Ce ne andiamo quindi dalle isole britanniche, dall'altra parte del mondo, verso l'Australia. Emil and the Sniffers da Melbourne, Australia. Dallo slang nitrito di Emil, cioè il popper. Il loro disco di esordio del 2019, che si chiama proprio Emil and the Sniffers, ci andiamo ad ascoltare Angel, quinta traccia, e di seguito un Monsoon Rock Emil and the Sniffers per mantenere tutto in movimento. Sappiamo se il PPDMRS loro sanno, sia tante volte all'ascolto, però penso che gradirebbero senz'altro questo garage dall'Australia e rock and roll da capo Monsoon Rock. We'll be right back. you know. You're under pressure. It's really so. Yeah! Anni del secolo in questione. Queste erano le Motorama. Registrato il 26, 27 e 28 maggio del 2002. Come Emil Sniffer, selvaggi e brutali. Quel tanto che basta. Il resto è il grande caos. Dissonanza e confusione. E pare quasi che stiamo parlando. Questi anni, di questi tempi sconcertanti e bui. In cui tante di quelle convinzioni, di quegli equilibri che credevamo stabili ed eterni, di quella, di quel progresso sociale, civile, umano che credevamo fosse in qualche modo sorto dalla fine del colonialismo, della grande seconda guerra, della grande guerra e poi della seconda guerra mondiale. Per dirla come li hanno visti i popoli, le genti dell'est, la grande guerra patriottica. Credevamo che la lotta, la contesa politica, il conflitto. Anche nei paesi, e soprattutto nei paesi ricchi del nord e dell'occidente, nei quartieri alti delle borghesie, avesse assunto un lessico e una fisionomia che era quella del, così, del conflitto sotto controllato, insomma, che non debordava, semmai debordava in periferia. In tutto quel mondo altro che veniva considerato semplicemente come risorsa da attingere da espoliare per portare invece questi beni e queste risorse a far bello il giardino ordinato. Pensavamo che comunque, per quanto appunto il conflitto fosse impossibile da abolire, e per quanto aspro si sarebbe dovuto svolgere così dentro queste mura, queste recinzioni, evidentemente avevamo anche ragione quando dicevamo appunto che il sistema era marcio, che si reggeva su equilibri precari, su una piramide rovesciata. A molti troppo poco e a pochi troppo. Caos e confusione e dissonanza, quindi a Radio Onda Rossa. E questo è un live controversial negro. E Mississippi con tante S e tante P, quante ne volete mettere? E poi Juice Juice, John Spencer Blues Explosion, il re della dissonanza, del caos, della confusione. Eh sì, siamo saltati alla settima traccia, appunto, dicevamo, caos, confusione. E appunto abbiamo confuso la riga sotto con la riga sopra. E quindi John Spencer Blues Explosion abbiamo ascoltato Culvi. E questa è Blues Man. Power, Russell Simmons, Joe Spencer. Yeah! osiamo immaginare come può il pubblico aver lasciato l'Hotel Congress in Tucson, Arizona, il 25 novembre del 96 e il 30 ottobre del 94. Due sessioni a due anni di distanza in cui è stato registrato questo e poi è edito questo Controversial Negro per The Joe Spencer Blues Explosion. Invece veniamo a tempi più recenti. Loro fanno rock sudista, ma pure tanto blues. Eppure così, delle ballads alla maniera del sud del Nord America. Ve li mandiamo da capo perché questa merita proprio. E poi anche un'altra traccia invece più così raccontata. Questa è Peace in Mississippi, appunto, l'avevamo detto annunciata prima per errore. Radio Onda Rossa 25 o'clock 06491750, recapito telefonico 87.9 della banda romane laziale a Roma. E invece in dub da Perugia, Terni e Roma. E streaming www.rossa.info. Dai, yeah. Loro sono North Mississippi Stars. Peace in Mississippi, da capo. speeding like a bullet from a gun. Thank you. era il 2003 quando usciva questo Warwood, I Vermi del Legno, per quanto riguarda la jam band Moe da Buffalo. Abbiamo ascoltato Bullet. E insomma, ci siamo ascoltati un po' di gruppetti made in USA. Dici, vabbè, ma sta succede quello che sta succedendo nel mondo, la radio onda rossa, la radio anti-imperialista da sempre. E tu manni tutta musica made in USA. Vabbè, più che altro la domanda sarebbe un'altra. Tutta sta gente negli Stati Uniti, che non lo so poi come la pensa, che cosa pensa, però insomma mi sembra piuttosto abile, sa fare, sa suonare, sa interpretare, sa metterci l'anima dentro. Ma dico, ma negli ultimi 8 anni o quello che è, ma solamente 2 coglioni così ci avevano da mettere a capo del l'impero? Chiunque, diciamo, di questi qua che abbiamo ascoltato stasera avrebbe senz'altro fatto, anche non facendo nulla, danni molto minori. Ecco, semmai la domanda sarebbe proprio quella: ma come funziona sto meccanismo del potere? In questi che dovrebbero essere, no, cioè è una barzelletta, insomma. E dico proprio due, perché due pagliacci, uno di seguito all'altro, solamente i pagliacci fanno ride e questi fanno piagne. E come dice qualcuno, c'hanno pure le chiavi della valigetta. Quindi la valigetta, apri, schiacci il bottone e arrivederci ai suonatori. Buonanotte ai suonatori, come si diceva a Roma tanto tempo fa. Radio Onda Rossa, questo adesso diventa lo spazio amichetti nostri e amichette nostre. E quindi abbiamo un po' di failetti da ascoltare, lasciamo da parte le plastiche, i lettori e via. E andiamo, cominciamo subito con Psychedelic Renaissance, ultimo rilascio per quanto riguarda Roberto Falconieri, che anche lui tanto tempo ha passato proprio negli USA e ci ha raccontato anche un po' come funziona da quelle parti la vita, la cultura, i modi di essere. Ci andiamo ad ascoltare Coco Pile, che è una divinità, e poi, dato che parliamo di divinità pagani, non possiamo che ascoltare di seguito Velester con la sua, con la loro, anzi, Hypnalis. Quindi Roberto Falconieri e Velester di seguito, dopo ci risentiamo. Dai, Andorossa 25 o'clock.

Ed ora passiamo alla traccia successiva dello spazio degli amichetti e delle amichette di 25 O'Clock. Come si fa a partecipare a questo spazio? Vabbè, basta che ci portate le tracce, insomma, vi fate presenti, vi fate vedere, sentire. A nostro, come si dice, insindacabile giudizio. Questo invece è un po' l'inno dell'inizio di stagione di 25 O'Clock. Abbiamo cominciato apposta quasi la trasmissione, le puntate in anticipo, per mandare in anteprima mondiale in diretta qui con Marco dei B38 Punk questa CVS Pacem P, apro parentesi, 38 Arabellum. Ciclo di Beate e P38 Pack insieme. L'inno del 2020, di fine 2025, già ormai passato, dato che la storia va a una velocità vorticosa che ci basisce tutte e tutti. Dai. Pechino, Perù del Gioia, la mia via del paradiso. questo è stato d'assedio. Kurdistan, che parte fra qualche secondo. Tocca aspettare. Eccola qua. This message probably is something is going, you know, probably is going like this, but I knew that, and it's okay for me. I'm happy to did this choice. I will make this choice 1,000 times because I'm convicted about it, and you know, I love you all of you, that's it from my life, my friends, my family, my dog. E questo è Kurdistan. Stare d'assedio. galline finali. E questo invece da Bologna lo mandiamo da capo, non vi preoccupate. Te simulacra, Pavel, da Bologna. I have seen the future. Scaricabile dal sito di Radio Onda Rossa, se andate su sotto Scarcerando Playlist. Foglio bianco, palcoscenico al neon. Veniamo al mondo e siamo privi di coscienza. La vita mette alla prova l'innocenza e non c'è storia e non c'è scienza. Non fermi sta violenza, porta chiusa tra ste quattro mura che sconti una penitenza. Ma in assenza di equilibrio anche su si ha fatto cazzate. Una bambina di vent'anni e le serate sregolate. Le ha pagate 10 volte tanto quanto le ha comprate. Le ha scontate 100 giorni dietro quelle grate. Dietro quelle grate. Para Edima, ad una manca la sua mamma e dall'altra la sua bambina. Una per la fame ha fatto il palo per una rapina e l'altra era una copertura per spacciare cocaina. Ma prima impressione siamo tutte brave persone, sbagliando ideali costruiamo la nostra prigione. Per il familiare o per chi brucia di passione, non siamo tutti uguali agli occhi della legge. Non è mia impressione, no signore, non aggiungere dolore. Su questo inferno bene e male fanno confusione. Sbagliamo tutti e poi cerchiamo redenzione. È un po' quello che fanno tutte le persone. So che ho sbagliato ma non posso piangermi addosso. Il peggio non l'ho rimosso, ho un sogno nascosto. Scriverò su questo foglio bianco tutto ciò che posso. So che ho sbagliato ma non posso piangermi addosso. Il peggio non l'ho rimosso, ho un sogno nascosto. Scriverò su questo foglio bianco tutto ciò che posso. Penso a stare che ha fatto così. cose peggiori, a quanto siano grandi ora i suoi demoni interiori, con il senso di colpa prima o poi ti deteriori, storie di detenzioni, mica di rose e fiori, qui trovi cuori spezzati, gente da anni, giudicati senza che si siano mai messi nei loro panni, abbandonati ai loro drammi, coi loro fantasmi, sta società ci spinge sempre a stare meno calmi, ora coi palmi sulle fredde mura di sta cella, sa cosa ha fatto ogni molecola, particella, sparire sullo spazio con la navicella, tra le braccia di tua figlia, ora che grandicella, bella, perché ha trovato prima il modo giusto di affrontare e di reagire a questo mondo ingiusto. La tua stella prima ti guidava altrove, adesso veglia su di te la notte mentre aspetti il sole. No signore, non aggiungere il dolore, su questo inferno bene e male fanno confusione, sbagliamo tutti e poi cerchiamo redenzione, è un po' quello che fanno tutte le persone. So che ho sbagliato ma non posso piangermi addosso, il peggio non l'ho rimosso, ho un sogno nascosto, scriverò su questo foglio bianco tutto ciò che posso. So che ho sbagliato ma non posso piangermi addosso, il peggio non l'ho rimosso, ho un sogno nascosto, scriverò su questo foglio bianco tutto ciò che posso. E questa invece è Lili Refrain, ultima sua uscita, ultima crediamo, insomma, di un paio di mesi fa. Si chiama Nagal, andate a vedere il video sul tubo, sulle piattaforme che lo contengono. Molto suggestivo. Questa è Radio Onda Rossa, 25 o'clock 06 4917 50, 87.9 della modulazione di frequenza. Da Roma in FM e poi in DAB. Da Terni, Perugia, Roma. Amichetti e amichette, The 25 o'clock. Ah. eccoci tornati in diretta verso la conclusione di 25 o'clock. E ricordate che, insomma, mentre mezzo mondo è in fiamme, dal Pakistan, Afghanistan, all'Iran, agli stati del Golfo, a Israele, al Libano, alla Palestina, al Sudan, all'est Europa, qui in città mano a mano si vanno aprendo alcune mobilitazioni riguardo proprio alla guerra, che non è che si avvicina, sta già qua nelle politiche di guerra, nell'economia di guerra, che mano a mano ogni giorno diventa più presente, si instaura sempre di più. Come una malattia, come un virus che sembra non abbiamo gli anticorpi per poterlo espellere, tenere lontano. E così non vorremmo restare, sembrare retorici, insomma, ma se è vero che grandi rivoluzioni sono nate dalle guerre, sono nate proprio dal rifiuto di queste guerre imperiali. Dal desiderio che, appunto, la guerra di conquista diventi guerra di liberazione. Ma questi sono strani processi storici che è difficile poi saper innescare. Che nascono da quanto abbiamo saputo seminare in termini di conoscenza, di sapienza, di storia, di saper raccontare la storia. E non le menate, non le agiografie che ci propinano di volta in volta i cattivi, i buoni e tutte ste stronzate qua. Vabbè, insomma, ci stanno le piazze che si stanno riempendo piano piano, specie nei fine settimana. Anche la radio si farà partecipi mano a mano di queste, di quanto succede, insomma, su questo piano della mobilitazione. Quello che per ora vi invitiamo a fare è di mobilitarvi, non pensare che sia inutile, ricordando a quanto in qualche maniera abbiamo saputo fare durante il periodo della Freedom Flotilla sulla Palestina, e quando ci si muove in tanti, ci si muove decisi con uno scopo, magari si ottiene un'altra cosa, ma comunque si entra a gamba tesa nella storia, si dimostra che, come si sarebbe detto un tempo, le masse, e la massa quando si muove ha un peso. Quindi sì, la vostra nausea fatela uscire fuori. E quindi Trapping Murphys, che ci hanno tenuto compagnia sotto queste note stonate della nostra voce. Come on then, Jim. It's

not acknowledging the jet set. So I paid myself in sound within my Budokan headset. The solar system watches in wisdom. The children dance as the moonlight kissed them. To massive attack, my black appeal wearing beats. 2 hours traveling, so I wrote this on repeat. Boys living fast, people getting jumpy. Where our goody falls, I just do the water pumpy. Microphone so close, crowds so far apart. Take my piece of mind, it's on my name across your heart. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, mentre abbiamo ascoltato Blue Line da Massive Attack, primo disco di Massive Attack. Though you may not try. Abbiamo parlato delle grandi iniziative, ancora un po' fumose, ma arriveranno. Iniziative più piccole che ci servono comunque, sempre per stare insieme, per ascoltare della buona musica, ascoltare la radio e magari scambiare anche delle opinioni e delle chiacchiere in tranquillità. Domenica 22 marzo 2026 alle ore 18, centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino, via Federico del Pino a Roma. Dalle 18 alle 24 in sala da te al centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino, un ascolto condiviso, benefit, onda rossa, opening BDC live. Closing in dispensa DJ set. In attesa questo dei 49 anni di Radio Onda Rossa, 22-24 maggio 2026, l'avevamo accennato prima. Paio di mesi prima avevamo, vabbè, insomma, dai, non ci siamo più tanto con i ragionamenti, avevamo parlato di un mese, non ne mancano ancora due, eh. E poi tante altre cose, vi invitiamo ad andare a visitare il sito Gancio de Roma, dove troverete tutti gli appuntamenti che sono interessanti qui dalle parti della capitale, del centro Italia. Allora, con questo noi andiamo a chiudere la notte di Radio Onda Rossa in diretta. Ma non lo facciamo prima di aver indicato, come di consueto, come di solito, quelle che sono il proseguo delle trasmissioni di Radio Onda Rossa, che vi conterrà compagnia dopo la fine di 25 o'clock con la compagna Automatica Muse, che vi terrà compagnia con le repliche, i podcast in replica di Radio Onda Rossa e le varie trasmissioni che appunto hanno pubblicato sul sito le loro repliche, che rimanno in onda poi durante la notte in altri spazi, diciamo, della radio, con dei vuoti di palinsesto. Si riprenderà in diretta domani mattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina. Poi a seguire i redazionali dalla città e da fuori, dalle 10 alle 12.30 con le corrispondenze appunto dalla città e da fuori, i redazionali della radio. girl who's rolling up her jeans. She watches her street cred, cause she's no dumb. E le varie corrispondenze che caratterizzano il giovedì mattina. Ci si ferma un attimo alla diretta con la replica d'impatto dalle 12.40 alle 13.40 e poi tutta scena cinema, la trasmissione sul cinema della Onda Rossa che è venuta dalle 14 alle 15, dalle 15.30 alle 17 ancora repliche, dalle 18 alle 19 We Try in la rete internazionalista in difesa del popolo Mapuche della nostra Martis che salutiamo. E a seguire Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Onda Rossa, i Notibus Panis in serata dalle 21.45 alle 22.45 e poi in avanti i cuginetti di Apostasia a chiudere le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa. Questo è il palinsesto del giovedì della radio. Funny tickles, especially on my tummy. Now who's got the microphone? Now who's honey? It's a tubo and chance with a charm. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, la radianza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, famigerati, centri di detenzione per migranti. Un abbraccio a tutte e tutti loro. E un abbraccio anche a tutte e tutti coloro che sono costretti ai decreti amministrativi che li tengono lontani da quelle che era la loro socialità, o li tengono relegati al posto dove lavorano. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo, vediamo che riusciamo a mettere in cantiere. Bella a tutti e a tutte, dai, è così. Ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai. No block will tuck you in your phony. It started by Marconi, resumed by Sony. A summary of wireless history and only. A massive attack and only explosione.